Radio 24 Reportage. Il caso Isochimica, l'amianto che minaccia Avellino, di Katia Caramelli. Quando arrivo al campetto di calcio di Borgo Ferrovia, periferia di Avellino, i ragazzi, come quasi tutti i giorni, si stanno allenando. Ma quel campetto non è come tutti gli altri. Sorge a pochissimi metri da quella che fu l'Isochimica, la fabbrica di Elio Graziano, dove negli anni Ottanta veniva scoibentato l'amianto dalle carrozze delle Ferrovie dello Stato e dove ora, nel cortile, sono custoditi 500 cubi di amianto friabile e deteriorato. E sottoterra, di amianto, seppellito dagli operai, ce n'è a tonnellate. L'avvocato Brigida Cesta rappresenta gli ex operai e le loro famiglie. I periti, i super periti nominati dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno riscontrato la presenza di amianto libero. Hanno riscontrato che l'amianto che era stato cementificato in questi cubi ancora presenti all'interno dello stabilimento è in uno stato di degrado tale che ne consente la dispersione nell'aria. Parte dell'amianto veniva anche interrato, ci sono delle testimonianze di alcuni lavoratori già depositati agli atti della procura, dalle quali emerge che parte di questo amianto veniva imbustato in delle banalissime buste della spazzatura e veniva poi interrato. Diciamo che l'ARPAC, a distanza di 30 anni quasi dalla chiusura di questo stabilimento, si è resa conto che era necessario procedere ad una bonifica dell'area. Preliminarmente occorre chiaramente mettere in sicurezza questo amianto, questo per il benessere della frazione Borgo Ferrovia. Il 31 ottobre l'ARPAC ha prescritto la bonifica dell'area, messa sotto sequestro d'urgenza nell'ambito dell'indagine coordinata dal capo della Procura di Avellino, Rosario Cantelmo, che vede 24 indagati. Gli operai, e tutto certificato, lavoravano senza protezione. Così è stato per anni, come racconta Carlo Sessa all'Isochimica dall'83 all'88. A parte i due capannoni che hanno fatto, non erano idonei proprio a fare questo tipo di lavoro. Quindi senza impianti di aspirazione, senza niente, sta tutto documentato, tutto scritto, non lo diciamo noi operai. Quindi i primi anni sono stati terribili, addirittura con i fazzoletti davanti alla bocca. Poi sono arrivate le semplici mascherine di carta, in un ambiente incredibile, si scoibentavano 30 carrozze contemporaneamente, quindi l'amianto non veniva neanche bagnato, come disse la Cattolica nell'85. Quindi era un polverone veramente da non credere. Poi li portavamo a casa, infatti ci stava già qualche casa di moglie, che all'epoca qualcuno dei lavoratori erano sposati, e c'è, sta avendo qualche problema con l'amianto anche la moglie dei lavoratori. E noi purtroppo, nonostante la giovanissima età, perché avevamo tutti dai 19, 17 addirittura, capimmo che qualcosa non andava. Già nell'84-85 iniziamo a fare le denunce, forse primo caso unico in Italia, lavoratori che denunciavano l'azienda dove lavoravano. Però purtroppo nessuno ci ha ascoltato, stava succedendo una tragedia dentro e fuori. E quindi solo nell'85... il sindacato chiamò la Cattolica di Roma, mi ricordo la prima volta che vennero, disse no, non ci sono neanche proprio i presupposti per entrare nel capannone, il capannone B, dove si scoibentava. Quindi ce ne andiamo, fate almeno le cose minime necessarie, almeno bagnate l'amianto. Dopo si iniziò a bagnare l'amianto, addirittura poi i primi risultati che la Cattolica di Roma fece superavano di ben 400 volte la soglia ammessa all'epoca, di 400 volte erano. Poi fu comprato qualche maschera di gomma che non serviva a niente, gli ultimi un paio d'anni prima che chiudesse consegnarono tipo scafandri che praticamente veniva riciclata la stessa aria del capannone, quindi non serviva a niente, si scaricavano le batterie. Infatti la terza relazione della Cattolica fece i prelievi addirittura sotto i caschi, eppure là si superavano tutte le soglie ammesse. Nel 1990 l'Isochimica è stata definitivamente chiusa e ora si fanno i conti. 12 le morti di cui si ha notizia, 140 i malati. E tanti altri casi stanno arrivando. Per gli operai al danno la beffa, nessuna possibilità di prepensionamento. Nicola Abrate, ex operaio. Ho iniziato a lavorare nell'83 fino alla chiusura del Tribunale di Firenze nell'88. Mi occupavo di scoibentare i vagoni ferroviari, cioè liberavamo l'amianto dai vagoni ferroviari.

più passa tempo, più c'è la possibilità di dispersione in concentrazioni maggiori delle fibre, e quindi c'è una possibilità statistica di maggiore percentuale di persone colpite da tumore polmonare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.